Capitolo 2. Il governo, ormai in preda al panico, non era pagato dall'imprigionamento delle donne che avevano sfasciato le finestre. Cercava, in una maniera goffa e miope, di compiere l'impresa impossibile di annientare in un solo colpo l'intero movimento militante. I governi hanno sempre tentato di schiacciare i movimenti riformatori, di distruggere le idee, di uccidere cose che non possono morire, senza riguardo per la storia che dimostra come nessun governo sia mai riuscito a compiere questa impresa. Il nostro continuava a insistere nel vecchio, insensato modo. Per giorni, prima delle due dimostrazioni descritte nell'ultimo capitolo, il nostro quartier generale al Clemensin era stato tenuto costantemente sotto osservazione dalla polizia e la sera del 5 marzo un ispettore e una vasta schiera di detective scesero sul posto, con mandati di arresto a carico di Christabel Pankhurst e dei coniugi Petting Lawrence, che insieme a me e la signora Tuck erano accusati di complotto per incitare alcune persone a commettere oltraggi e danneggiamenti alla proprietà. Quando i funzionari entrarono, trovarono il signor Petting Lawrence al lavoro nel suo ufficio e la signora Petting Lawrence nel suo appartamento al piano di sopra. Mia figlia non era nell'edificio. I Lawrence, dopo essersi rapidamente preparati, furono portati in taxi alla stazione di Bow Street, dove trascorsero la notte. La polizia rimase a piantonare gli uffici e i detective furono inviati a trovare e arrestare Christabel, ma l'arresto non ebbe mai luogo. Christabel riuscì a eludere l'intera forza di detective e poliziotti in uniforme, esperti cacciatori di prede umane. Christabel era rientrata a casa e all'inizio, avendo saputo dell'arresto dei Lawrence, aveva dato ormai per scontato anche il proprio. Riflettendoci, però, aveva compreso il pericolo in cui si sarebbe trovata la WSPU se fosse stata completamente privata delle sue leader riconosciute, e avvertendo come proprio dovere la necessità di evitare l'arresto, abbandonò con calma la casa. Passò la notte a casa di amici che il mattino seguente l'aiutarono a organizzarsi e a lasciare Londra in tutta sicurezza. Quella stessa notte raggiunse Parigi, dove da quel momento è rimasta. Il mio sollievo, quando seppi della sua fuga, fu enorme, perché sapevo che qualsiasi cosa fosse successa ai loro insieme a me, il movimento sarebbe stato guidato saggiamente, e questo malgrado il fatto che la polizia rimanesse in possesso del nostro quartier generale. Gli uffici del Clemensin furono perquisiti da cima a fondo dalla polizia, nell'ostinato sforzo di trovare le prove della cospirazione. Frugarono in ogni scrivania, schedario e armadietto e si portarono via due carrozze di libri e documenti, compresi tutti i miei documenti personali, fotografie delle mie figlie da bambine e lettere speditemi da mio marito tanto tempo prima. Alcune di queste cose non le avrei mai più riviste. La polizia terrorizzò inoltre il tipografo che stampava il nostro settimanale e anche se il giornale continuò a uscire regolarmente, circa un terzo delle colonne furono lasciate vuote. Gli articoli principali, comunque, con tanto di spazio bianco tra le pagine, producevano un effetto ancora più drammatico. La storia insegna, recitava un titolo sopra uno spazio vuoto, suggerendo chiaramente come il governo fosse incline a tenere la gente all'oscuro di alcune delle cose che la storia insegna. La moderazione delle donne indicava che il paragrafo tagliato prevedeva un raffronto tra le finestre rotte dalle donne e le grandi violenze compiute dagli uomini in passato. Più eloquente di tutte fu la pagina dell'editoriale completamente bianca, a parte il titolo Una sfida, e il nome in calce dell'ultima colonna, Christabel Pankhurst. Quali parole avrebbero potuto comunicare un più fiero atteggiamento di sfida, una più implacabile determinazione? Christabel era andata via, fuori dalle grinfie del governo, eppure restava in totale possesso della scena. Per settimane la ricercarono senza tregua. La polizia perlustrò tutte le stazioni ferroviarie, tutti i treni, tutti i porti di mare. La polizia di ogni città del Regno Unito fu provvista del suo ritratto. Qualsiasi Sherlock Holmes dilettante si unì alla polizia nelle ricerche. Fu avvistata in dozzine di città, tra cui New York. Ma lei intanto viveva tranquillamente a Parigi, in comunicazione giornaliera con le colleghe di Londra, che nel giro di pochi giorni erano ancora una volta tornate ai loro incarichi. Da allora mia figlia è rimasta in Francia. Intanto io mi trovavo nell'anomala posizione di reclusa, condannata a 2 mesi di carcere e di detenuta in attesa di giudizio con l'accusa di un reato più grave. La mia salute non era buona, essendo stata messa in una cella umida e fredda della terza divisione, e il risultato fu un acuto attacco di bronchite. Inviai una lettera al segretario di Stato spiegandogli le mie condizioni ed esortandolo a rimettermi in libertà in modo da poter guarire in vista del processo a mio carico. Chiesi di essere rilasciata su cauzione nel pieno diritto di una detenuta in custodia preventiva e offrendomi, se fosse stata accettata la cauzione, di scontare il resto della pena di 2 mesi in seguito. Le sole concessioni accordatemi, tuttavia, furono lo spostamento in una cella migliore e la possibilità di vedere la mia segretaria e il mio avvocato, ma esclusivamente in presenza di una carceriera e di un membro del personale amministrativo della prigione. Il 14 marzo, il signore e la signora Patrick Lawrence, la signora Took e io fummo convocati per l'udienza preliminare con l'accusa di avere, il 1 novembre 1911 e in altre varie date, agito in combutta e cospirato illegalmente e dolosamente per compiere danneggiamenti, eccetera. La causa si aprì il 14 marzo in un'aula affollata in cui rividi tanti amici. Il signor Botkin, per l'accusa, fece una riga molto lunga, sforzandosi di dimostrare che la WSPU era un'organizzazione ben strutturata e di bieca natura. Produsse varie prove documentari, alcune delle quali talmente comiche che la corte dovette soffocare le risate e il giudice fu costretto a nascondere i suoi sorrisi dietro la mano. Botkin parlò di un nostro cifrario con l'aiuto del quale riuscivamo a scambiarci messaggi segreti. La voce divenne un mezzo bisbiglio scandalizzato quando affermò che eravamo sospettate di aver incluso la sacra personalità del governo nel nostro codice segreto. Riteniamo, disse incredibilmente il signor Botkin, che uomini pubblici al servizio di Sua Maestà in qualità di membri del governo siano elencati qui con nomi in codice. Abbiamo ragione di credere che il gabinetto nel suo complesso sia indicato con la parola in codice alberi e che i singoli membri del governo siano designati talvolta con i nomi degli alberi, ma personalmente credo anche che con quelli delle piante più comuni. Su questo passaggio fu interrotto da un brusio di risatine. Botkin fece un'espressione accigliata e proseguì. Eccone uno, disse solennemente, chiamato Pansy, viola del pensiero. Un altro più lusinghiero, Roses, un altro Violets e così via. Ciascuna delle imputate era designata da una lettera in codice. La signora Pankhurst era identificata dalla lettera F, la signora Patkin Lawrence D, la signorina Christabel Pankhurst E. Ogni edificio pubblico, compresa la Camera dei Comuni, aveva il suo nome in codice. Le letali indicazioni del codice erano illustrate in un telegramma trovato in uno degli schedari. Diceva seta, cardo, viola del pensiero, anatra, lana e punto, Q punto. Trascritto con l'aiuto del cifrario rinvenuto, il telegramma dice: protesterete alla riunione pubblica di Esquit domani sera, ma non fatevi arrestare perché il successo dipende da quello. Rispondete a Christabel Pankhurst, Clemens Inn. Altre risate seguirono queste rivelazioni, che in fondo dimostravano l'efficienza dei metodi impiegati dalla WSPU. Le risate dimostravano un'ancora più significativa, in quanto erano il chiaro segno che il vecchio rispetto di cui godevano i ministri del gabinetto non esisteva più. Avevano strappato il velo delle loro sacrosante personalità e li avevamo mostrati per quello che erano, politicanti meschini e macchinatori. Più seria dal punto di vista dell'accusa era la prova presentata dai membri del Dipartimento di Polizia in relazione ai fatti dell'1 e del 4 marzo. Gli agenti che avevano arrestato me e le mie amiche a Downing Street il 1 marzo, dopo che avevamo rotto le finestre della casa del Premier, testimoniarono che in seguito all'arresto avevamo scagliato contro di loro le pietre che c'erano avanzate e che si trattava di sassi piuttosto pesanti. Altre prigioniere erano state trovate in possesso di pietre simili, il che dimostrava che tutte le pietre provenivano dalla stessa cava. Altri ufficiali rilasciarono deposizioni sulla modalità sistematica con cui era stata perpetrata la rottura delle finestre in quei 2 giorni di marzo, su quanto metodicamente era stata pianificata e su quanto era stato militaresco il comportamento delle donne. Il 4 marzo erano state viste andare a gruppetti di 2 o 3 al quartier generale di Clemens Inn, portando delle borse da depositare sul posto per poi recarsi alla riunione della Pavilion Music Hall. La polizia era presente alla riunione, come sempre nel caso di una dimostrazione o di una delegazione in arrivo. Alle 5 la riunione fu aggiornata e le donne uscirono come per tornarsene a casa. La polizia notò che molte di loro, ancora in gruppo di due o tre, andarono al ristorante Gardenia in Catherine Street, allo Strand, un luogo dove tante volte le suffragette si erano ritrovate per una colazione o un tè. La polizia riteneva che lì, il 4 marzo, si fossero radunate circa 150 donne. Vi rimasero fino alle 7 e poi, sotto lo sguardo vigile della polizia, si erano messe a camminare disperdendosi. Pochi minuti dopo, quando non c'era più motivo di aspettarsi una cosa del genere, per tutte le strade risuonò il rumore di intere finestre mandate in frantumi. Le autorità della polizia diedero importanza al fatto che le donne, che avevano lasciato le borse al loro quartier generale e furono poi arrestate, vennero fatte rilasciare su cauzione quella notte stessa dal signor Patting Lawrence. La rassomiglianza delle pietre usate, l'assembramento di così tante donne in un unico edificio, pronte all'arresto, l'attesa al ristorante Gardenia, l'apparente dispersione, la simultanea distruzione dei vetri delle finestre in vari punti e il pagamento della cauzione effettuato da una persona collegata al quartier generale summenzionato, tutto rivelava con certezza l'esistenza di un piano ben congegnato. Soltanto un pubblico processo alle imputate poteva stabilire se quel piano fosse o no una cospirazione. Durante la seconda giornata dell'udienza ministeriale, alla signora Took, che era stata nell'infermeria del carcere per 20 giorni ed era assistita dinanzi alla corte da un'infermiera specializzata, fu concesso il rilascio su cauzione. Il signor Patty Clarence fece un forte discorso in sua difesa al fine di ottenere il rilascio su cauzione per sé e per sua moglie, sottolineando che erano rimasti in prigione 2 settimane in custodia preventiva e quindi avevano diritto alla cauzione. Anch'io rivendicai i privilegi dei detenuti in custodia preventiva. Entrambe queste richieste furono respinte dalla corte, ma pochi giorni dopo il segretario di Stato scrisse al mio avvocato che il resto della mia pena di 2 mesi sarebbe stato posticipato a dopo che si fosse tenuto il processo sulla cospirazione a Bow Street. I signori Patty Clarence avevano già ottenuto la cauzione. L'opinione pubblica spinse il segretario di Stato a fare queste concessioni, dal momento che si sa benissimo come sia pressoché impossibile preparare una difesa se si è rinchiusi in prigione. A parte i tremendi effetti del carcere sul fisico e sui nervi, esiste proprio l'oggettiva difficoltà di consultare documenti e procurarsi dati da ponderare. Il 4 marzo l'udienza ministeriale si concluse con l'assoluzione della signora Took, la cui attività all'interno della WSPU si dimostrò essere di natura puramente segretariale. Io e i signori Patty Clarence fummo convocati a processo alla prossima seduta della Central Criminal Court, il cui inizio era fissato per il 23 di aprile. A causa del mio cattivo stato di salute, il giudice fu persuaso con grande difficoltà a rimandare il processo di 2 settimane e fu quindi solo il 15 maggio che la causa si aprì. Il processo all'Old Bailey è una cosa che non dimenticherò mai. La scena è nitida davanti a me mentre scrivo. Il giudice, imparruccato in maniera impressionante, che dominava con la sua toga scarlatta l'aula affollata, gli avvocati al loro banco, la giuria e molte, molto lontane le pallide facce ansiose dei nostri amici che stipavano le anguste gallerie. Per ironia del destino, questo giudice, Lord Coleridge, era il figlio di Sir Charles Coleridge, che nel 1867 comparve davanti alla corte, insieme a mio marito, il dottor Pankhurst, nel celebre caso Corton versus Links, cercando di far valere il fatto che le donne sono persone e come tali hanno i titoli per accedere al voto parlamentare. Per rendere l'ironia ancora più profonda, il procuratore generale, Sir Rufus Isaacs, che in qualità di avvocato della corona sostenne l'accusa contro le donne militanti, era stato lui stesso incolpato di aver tenuto dei discorsi eccezionali in favore del nostro punto di vista. In un discorso del 1910 sul tema dell'abolizione del veto dei Lord, Sir Rufus affermò che sebbene la dimostrazione contro i privilegi fosse stata condotta in maniera pacifica, l'indignazione che l'aveva incoraggiata era molto forte. Sir Rufus disse: in precedenza, quando grassi masse di persone non avevano il diritto di voto, dovevano fare qualcosa di violento per dimostrare ciò che sentivano. Oggi l'arma dell'elettore è il suo voto. Nessuno si lascia ingannare, quindi, perché nella battaglia attuale è tutto pacifico e ordinato, al contrario del turbolento caos delle grandi battaglie del passato. Ci chiedevamo se l'uomo che aveva pronunciato queste parole fosse incapace di rendersi conto che le donne senza voto, private di ogni mezzo costituzionale per far riparare i torti subiti, erano anche loro obbligate a fare qualcosa di violento per dimostrare ciò che sentivano. Il suo discorso di apertura eliminò ogni dubbio al riguardo. Sir Rufus Isaacs ha i lineamenti netti, aquilini, gli occhi profondi e l'aria vissuta. Le prime parole che disse furono talmente ingiuste che non riuscivo a credere di averle sentite bene. Aprì il suo discorso rivolto ai giurati, dicendo loro che non dovevano per nessuna ragione collegare l'azione delle imputate a una qualsiasi dimostrazione politica. Sono impaziente di farvi capire, disse, fin dal momento in cui cominciamo ad affrontare gli eventi di questa causa, che tutte le questioni. Se le donne debbano avere accesso al voto parlamentare, se debbano avere lo stesso diritto di voto degli uomini, sono questioni che non hanno assolutamente nulla a che fare con il processo qui in oggetto. Pertanto vi chiedo di mettere completamente da parte nelle valutazioni sul merito che vi sarà sottoposto ogni personale opinione che possiate avere su questo senza dubbio importante tema politico. Eppure, Sir Rufus aggiunse nel corso delle sue osservazioni che temeva che non sarebbe stato possibile tenere fuori dalla condotta della causa vari riferimenti agli eventi politici e ovviamente l'intero processo, dal principio alla fine, dimostrò chiaramente che si trattava di un grande processo di Stato, come lo definì Time Healey, l'avvocato della signora Patty Clarence. Andando avanti, il procuratore generale descrisse la WSPU, che secondo lui esisteva dal 1907 e aveva utilizzato quelli che erano conosciuti come metodi militanti. Nel 1911 l'associazione era stata contrariata dal primo ministro perché questi non voleva fare del suffragio femminile quella che si dice una questione governativa. Nel novembre del 1911 il primo ministro annunciò l'introduzione di un progetto di legge sul suffragio maschile. Da quel momento in poi le imputate si misero al lavoro per organizzare una campagna che avrebbe significato nulla di diverso dall'anarchia. Le donne venivano indotte ad agire tutte insieme in un dato momento, in posti differenti e prestabiliti, in numero tale che le forze di polizia non sarebbero state in grado di muoversi per via delle tante persone che infrangevano la legge, allo scopo, per usare le parole delle stesse imputate, di mettere in ginocchio il governo. Dopo aver indicato le rispettive posizioni tenute dai quattro imputati all'interno della WSPU, Sir Rufus continuò a narrare gli eventi che erano culminati nella rottura dei vetri e delle finestre, valutate complessivamente in circa 2000 sterline, e nella carcerazione di oltre 200 donne che erano state incitate a compiere i loro gesti dai cospiratori alla sbarra. Ignorò completamente il motivo del gesto in questione e trattò l'intera storia come se le donne fossero delle ladre. Questo rovesciamento della sostanza degli eventi, per quanto abbastanza accurato nel racconto dei fatti, sarebbe potuto accadere per mano di Re Giovanni d'Inghilterra alla firma della Magna Carta. Fu ascoltata una grande quantità di testimonianze, in gran parte di uomini politici, e le loro deposizioni e il nostro esame incrociato rivelarono l'allarmante verità che in Inghilterra esiste uno speciale gruppo di polizia segreta interamente impegnato in operazioni politiche. Questi uomini, 75 in tutto, formavano quello che è conosciuto come il braccio politico del Criminal Investigation Department della polizia. Girano in incognito e il loro unico compito è di pedinare le suffragette e altri attivisti politici. Seguono determinati attivisti politici da casa al posto di lavoro, agli svaghi sociali, nelle sale da tè e nei ristoranti, persino a teatro. Inseguono persone insospettabili in taxi, siedono accanto a loro negli autobus. Soprattutto annotano le loro conversazioni. Di fatto il sistema è esattamente quello della polizia segreta in Russia. Io e il signor Patty Clarence parlammo in nostra difesa e il signor Ely P.M. in difesa della signora Patty Clarence. Non posso trascrivere integralmente i nostri discorsi, ma vorrei riportarne quanto più possibile per rendere chiara al lettore tutta la situazione. Il signor Lawrence parlò per primo all'apertura della causa. Cominciò dando un resoconto del movimento suffragista e spiegando perché sentiva che l'emancipazione delle donne gli sembrasse una questione talmente seria da giustificare le misure più forti per il suo conseguimento. Fece un breve schizzo della storia della WSPU, da quando Christabel Pankhurst e Annie Kenney vennero espulse alla riunione di Sir Edward Grey e messe in prigione per aver posto una domanda di natura politica, fino all'affossamento del Conciliation Bill. Il caso che mi trovo a sottoporvi, disse, è che né la cospirazione né l'istigazione sono venute da noi. La cospirazione è anzi la cospirazione del gabinetto che è responsabile del governo di questo paese. E l'istigazione è l'istigazione dei ministri della corona. E rese tanto più efficace la sua arringa, non solo raccontando il vergognoso raggiro e l'inganno con cui il governo aveva imbrogliato i suffragisti sul tema dei progetti di legge in favore del suffragio, ma anche riportando le inequivocabili parole con cui i membri del gabinetto avevano avvisato le donne che non avrebbero mai ottenuto il voto se prima non avessero imparato a combattere come avevano fatto gli uomini in passato. Quando venne il mio turno, consapevole che l'uomo medio è profondamente ignorante della storia del movimento femminile, perché la stampa non ha mai registrato adeguatamente e onestamente le cronache del movimento, raccontai alla giuria, nel modo più stringato possibile, la storia di 40 anni di agitazioni pacifiche prima che mia figlia e io decidessimo di votare la nostra vita all'impegno di garantire il voto alle donne, usando qualsiasi mezzo si fosse reso necessario per conquistare il diritto di voto. Dissi: fondammo la Women's Social and Political Union nel 1903. Il nostro intento iniziale era di incalzare e influenzare il partito politico che di volta in volta si trovava al potere, facendo pressione e coinvolgendo al massimo nella questione dell'emancipazione delle donne. Bastò poco tempo per convincerci, e non voglio annoiarvi con la storia di tutto quello che è successo, ma bastò davvero poco tempo per convincerci che era del tutto inutile, che in quel modo non avremmo mai ottenuto nulla. Poi, nel 1905, dovemmo affrontare la dura realtà. Ci accorgemmo che c'era una stampa che boicottava il suffragio femminile. I nostri discorsi in pubblico non venivano riportati giornalisticamente, le nostre lettere agli editori non venivano pubblicate, neanche se li imploravamo. Neppure l'attività parlamentare sul suffragio femminile veniva trattata sui giornali. Dicevano che il tema non era sufficientemente di interesse pubblico per trovare spazio sulla stampa e non erano preparati a indagarlo. Per quanto riguarda poi gli uomini politici del 1905, ci rendiamo conto di quanto vuote fossero le belle frasi sulla democrazia, sull'uguaglianza degli esseri umani, usate dai gentiluomini che in quel momento detenevano il potere. Il loro calcolo era di ignorare completamente le donne, su questo non ci può essere alcun dubbio. Nei documenti ufficiali diffusi dal Partito Liberale alla vigilia dell'elezione del 1905 c'erano frasi come questa: quello che il paese vuole è una semplice misura sul suffragio maschile. Non c'era spazio per le donne. Sapevamo perfettamente che se si fosse mai attuata una riforma del diritto di voto, il Partito Liberale, che in quel momento stava andando al potere, non avrebbe dato credito allo slogan voto alle donne, a dispetto di tutte le preghiere delle nostre associate, a dispetto del fatto che la maggioranza della Camera dei Comuni, specialmente di parte liberale, lo richiedeva. Ma questo non significa che l'avrebbero messo in pratica. E così fummo spinti a cercare un'altra maniera per portare la loro attenzione sulla nostra causa. Ora vengo al punto che riguarda la militanza. Ci rendemmo conto che i piani che avevamo in mente avrebbero richiesto grandi sacrifici da parte nostra, che ci sarebbero costati tutto quello che avevamo. Al tempo eravamo una piccola organizzazione, composta principalmente da lavoratrici e da mogli e figlie di lavoratori. E le mie figlie e io prendemmo un ruolo di comando, perché pensavamo a tutto e perché, fino a un certo punto, avevamo una posizione sociale migliore rispetto alla gran parte delle nostre associate e avvertivamo un forte senso di responsabilità. Descrissi gli eventi che segnarono i primi periodi del nostro attivismo, la scena della Free Trade Hall di Manchester, quando mia figlia e le sue compagne furono arrestate per il crimine di aver fatto una domanda a un politico, e proseguì: quale sarà la loro prossima mossa? Voglio farvi capire che nessuna delle azioni che abbiamo intrapreso è stata intrapresa se non dopo qualche atto di repressione da parte del nostro nemico, il governo, perché è il governo il nostro nemico, non sono i parlamentari, non sono gli uomini di questo paese, è solo il governo in carica che può darci il voto. È solo il governo che consideriamo nostro avversario e tutte le nostre iniziative sono rivolte a fare più pressione possibile su questa gente che può occuparsi delle nostre vertenze. La mossa successiva delle donne fu di porre delle domande durante lo svolgimento delle assemblee, perché, come ho detto, questi galantuomini non davano loro l'opportunità di porle dopo le riunioni. E poi cominciarono le intromissioni di cui avevamo sentito parlare. l'ingerenza nel diritto di tenere riunioni pubbliche, l'ingerenza nel diritto di libertà di parola, poiché queste donne teppiste, come le definivano, erano state denunciate. Vi chiedo, gentili signori, di immaginare quanto coraggio doveva avere una donna per impegnarsi in un'attività di quel genere. Quando gli uomini vengono a interrompere le riunioni delle donne, arrivano a bande, portano attrezzi rumorosi, cantano e strillano tutti insieme e battono i piedi. Ma quando le donne sono andate alle riunioni del Consiglio dei Ministri, solo per interrompere il Consiglio dei Ministri e non per altro, lo hanno fatto singolarmente. E per loro è diventato sempre più difficile accedervi, perché in reazione ai metodi usati dalle donne si è sviluppato un sistema di ammissione con biglietto d'ingresso e conseguente esclusione delle donne. Una cosa che ai miei tempi liberali sarebbe stata considerata scandalosa alle riunioni dei liberali. Ma si sviluppò appunto questo sistema dei biglietti e quindi le donne potevano entrare solo con grande difficoltà. Le donne si sono nascoste per 36 ore in posizioni scomode e pericolose, sotto i palchi, dentro gli organi, dovunque potessero trovare un buon punto di osservazione. Sono rimaste ad aspettare al freddo, morendo di fame, talora sui tetti esposti al gelo delle notti invernali, solo per avere la possibilità di dire durante il discorso di ministro: quando il governo liberale metterà in pratica la promessa che ha fatto? Quella è stata la forma di militanza nei suoi sviluppi successivi. Riesaminai tutta la vicenda delle nostre delegazioni pacifiche e della violenza con cui erano state invariabilmente accolte, dei nostri arresti e dei farseschi processi nei tribunali di polizia, dove la mera prova delle dichiarazioni dei poliziotti, non supportate dai fatti, bastava mandarci in prigione per lunghi periodi. Delle falsità sul nostro conto dette nella Camera dei Comuni dai membri responsabili del governo, storie di donne che graffiavano e mordevano i poliziotti e usavano gli spilloni dei cappelli. E accusai gli uomini del governo di aver compiuto questi attacchi contro donne che erano impossibilitate a difendersi perché avevano paura delle donne e volevano spegnere i fermenti rappresentati dalla nostra organizzazione. È stato affermato in quest'aula, dissi, che davanti alla Corte non c'è la Women's Social and Political Union, ma solo alcune imputate. L'azione del governo, gentili signori, è certamente rivolta alle imputate che sono qui oggi davanti a voi, ma è rivolta anche contro la Women's Social and Political Union. L'intento è di schiacciare l'organizzazione, e questa intenzione si è materializzata a quanto pare dopo che io ero stata mandata in carcere per 2 mesi per aver rotto i vetri di una finestra del valore di, mi è stato detto, 2 scellini e 3 pence. Punizione che accettai perché ero una leader di questo movimento, benché fosse una punizione del tutto sproporzionata per un danneggiamento così irrisorio come quello che avevo compiuto. L'accettai come la punizione per una leader di un movimento che era in disaccordo con il governo. E mentre ero lì, partì la persecuzione. Loro pensavano di fare piazza pulita delle persone che consideravano le menti politiche del movimento. Noi abbiamo molti falsi amici all'interno del gabinetto dei ministri, gente che professa tante buone intenzioni verso la causa del suffragio femminile. E loro pensavano che se fossero riusciti a mettere fuori gioco le leader dell'Unione, avrebbero conseguito l'effetto di posticipare a data indefinita e in sostanza di liquidare l'argomento in questo paese. Bene, non sono riusciti a compiere il loro disegno. Eppure se avessero messo fuori gioco le cosiddette leader di questo movimento, non ci sarebbero riusciti comunque. Ma allora, perché non hanno messo alla sbarra l'intera organizzazione? Abbiamo un governo democratico, per così dire. Questa Women's Social and Political Union non è una congrega di donnacce isteriche e insignificanti, come qualcuno di voi ha insinuato, ma è un'organizzazione importante che vanta tra le sue associate personalità di grande spessore. È composta da donne di tutte le classi della nostra comunità, donne che hanno influenza nel loro particolare campo lavorativo, donne professioniste che hanno influenza nelle organizzazioni professionali, donne di rilevanza sociale, donne persino di rango regale compaiono tra i membri di questa associazione ed è per questo che a un governo democratico non conviene trattare questa organizzazione nel suo insieme. Speravano che sbarazzandosi delle persone che secondo loro guidavano le fortune politiche dell'organizzazione, avrebbero disintegrato l'organizzazione stessa. Pensavano che se avessero messo fuori gioco i membri più influenti dell'organizzazione, avrebbero distrutto il movimento e, come ha detto, credo, un membro del Consiglio dei Ministri, l'avrebbero messo in fuga. Bene, i governi si sono sbagliati molte volte, gentili signori, e azzardo a dirvi che i governi si sono sbagliati di nuovo. Penso che la risposta al governo sia stata data alla riunione all'Arbor Hall, tenutasi immediatamente dopo il nostro arresto. Nel giro di pochi minuti, senza neppure l'eloquenza della signora Peckett Lawrence, senza il richiamo di quelle persone che erano state definite i leader di questo movimento, in pochi minuti sono state raccolte 10.000 sterline in sottoscrizioni per portare avanti il movimento. Ora, un movimento di questo genere, supportato in questo modo, non è un movimento isterico da strapazzo, non è un movimento di gente malaccorta, è un movimento molto serio. Donne come le nostre associate, faccio notare, e donne, mi azzardo a dire, come le due donne e l'uomo che sono oggi sul banco degli imputati, non sono persone che prendono alla leggera una cosa come questa. Mi concedete di provare a farvi capire che cos'è che ha dato a questo movimento, partito da un assetto iniziale assai ridotto dimensioni così gigantesche? È uno dei più grandi movimenti dei tempi moderni, un movimento che non solo ha un'influenza in questo paese, forse non ancora riconosciuta, ma ha un'influenza sui movimenti femminili in tutto il mondo. C'è qualcosa di più meraviglioso nei nostri tempi della spontaneità con cui questo movimento di donne si propaga in ogni paese. Persino in Cina, e penso che questo per gli uomini inglesi sia una specie di sciagura, persino in Cina le donne hanno conquistato il diritto di voto come risultato di una rivoluzione andata a buon fine, a cui oserei dire alcuni membri del governo di Sua Maestà guardano con favore. Una rivoluzione sanguinosa. Ancora una parola su questo punto. Quando fui messa in prigione la seconda volta, scontando 3 mesi come una criminale comune per aver recato un oltraggio non più grande della stampa di un volantino, meno provocatorio nei contenuti di certi discorsi dei membri del governo che procedono qui oggi contro di noi, durante quel periodo, grazie agli sforzi di un parlamentare, mi fu accordato il permesso di avere in cella un quotidiano. E la prima cosa che lessi sui giornali fu questa: che al momento il governo stava rendendo gli onori al Partito Rivoluzionario dei Giovani Turchi, gentiluomini che avevano invaso la residenza privata del sultano. Ne avevamo sentiti di tutti i colori sull'invasione della residenza privata delle signore Esquit quando avevamo osato suonare al campanello della sua casa. Gentiluomini che avevano ucciso e ammazzato e avevano portato a termine con successo la loro rivoluzione, mentre noi donne non avevamo mai tirato una pietra. Perché nessuna di noi fu mandata in carcere per aver tirato le pietre, ma solo per aver preso parte alle attività di questa organizzazione. Eppure noi fummo imprigionate, mentre questi assassini politici venivano celebrati dallo stesso governo che imprigionava noi e ricevevano le congratulazioni per aver vinto la loro rivoluzione. Allora, vi chiedo se vi meraviglia ancora che le donne a un certo punto si siano dette: forse non abbiamo fatto abbastanza. Forse questi gentiluomini non comprendono il genere femminile. Forse non capiscono i metodi delle donne e il perché non abbiano fatto le cose che hanno fatto gli uomini. Forse allora pensano che non siamo sincere. E così arriviamo all'ultima questione, quella di autorevoli statisti, come il signor Hobbs House, che dicono che non c'è mai stato un sollevamento emotivo, nessuna espressione di sentimento come quella che portò a incendiare il castello di Nottingham. E quindi ancora vi stupite se decidemmo di impegnarci a fare di più e magari riuscite a capire che riflettemmo a lungo per trovare una strada, come fanno le donne, che non avrebbe implicato la perdita di vite umane e la mutilazione di esseri umani, perché le donne hanno a cuore la vita umana più degli uomini. Penso che questo sia naturale, perché noi sappiamo quanto vale una vita. Noi rischiamo la vita per far nascere gli uomini. Ora, voglio dire una cosa deliberatamente in qualità di leader di questo movimento. Abbiamo cercato di contenerci, abbiamo tentato di non superare i limiti e io mi sono sentita la donna più orgogliosa del mondo quando una notte un agente di polizia mi disse, dopo una delle nostre manifestazioni: se questa fosse stata una manifestazione di uomini, ci sarebbe stato un grande spargimento di sangue. Beh, signori miei, non ci fu alcun spargimento di sangue, se non ai danni delle donne stesse. Queste cosiddette militanti. È stata usata violenza su di noi e io che compaio qui oggi dinanzi a voi al banco degli imputati ho perso una dorata sorella nel corso di queste agitazioni. Morì 3 giorni dopo essere uscita di prigione, poco più di un anno fa. Queste sono cose su cui, ovunque ci troviamo, non si può dire altro. Non possiamo essere allegre, non possiamo essere felici, non possiamo mantenere lo spirito giusto che significa successo. Se ci soffermiamo troppo sulla parte dura del nostro movimento. Ma dico questo, gentili signori, che qualsiasi cosa possiate pensare di noi in futuro, una cosa dovete riconoscerci. E qualsiasi cosa dicano i nostri nemici, abbiamo sempre condotto una battaglia onorevole e non abbiamo mai usato mezzi sleali per sconfiggere i nostri avversari, anche se loro non sempre si sono comportati in modo onorevole nei nostri confronti. Non abbiamo aggredito nessuno, non abbiamo fatto del male a nessuno e soltanto dopo il Black Friday, quello che è successo al Black Friday, è che avevamo un nuovo segretario di Stato e a quanto pare furono dati nuovi ordini alla polizia perché in quell'occasione la polizia ha mostrato una ferocia contro le donne che non aveva mai usato prima e le donne sono venute a dirci: questo non possiamo sopportarlo. È stato soltanto dopo quel giorno che abbiamo avvertito una nuova forma di repressione che ci avrebbe costretto a muoverci in un'altra direzione. Questa è la storia del Black Friday e voglio dire qui e adesso che dopo il Black Friday abbiamo tentato in ogni modo di far aprire un'inchiesta giudiziaria pubblica sui fatti del Black Friday per quanto riguarda le istruzioni date alla polizia. Quell'inchiesta è stata rifiutata, ma un'indagine informale è stata condotta da un uomo, il cui nome è una garanzia di statura e integrità morale su un versante dei grandi partiti politici e da un altro uomo di uguale spessore per il versante liberale. Questi due uomini erano Lord Robert Cecil e il signor Ellis Griffith. Hanno condotto un'indagine privata, hanno convocato delle donne, hanno raccolto le loro testimonianze, hanno esaminato quelle testimonianze e dopo averle ascoltate si sono convinti che quello che le donne avevano detto era sostanzialmente vero e hanno pensato che fosse buona cosa condurre quell'indagine. Tutto questo è riportato agli atti. Per evidenziare le nostre difficoltà, Lord Robert Cecil, in un discorso al Criterion Restaurant, ha parlato della questione. Ha invitato il governo ad aprire un'inchiesta e nemmeno una parola di quel discorso è stata riportata sui quotidiani del mattino. Questo è il tipo di cose con cui ci siamo trovati a fare i conti e io sono contenta di essere qui, anche solo per poter esporre questi fatti. E sfido il procuratore generale a istituire un'inchiesta all'interno di questi procedimenti legali. Non è il tipo di inchiesta che si limita a mandare gli ispettori a Holloway e accettare tutto quello che dicono i funzionari, ma ad aprire un'indagine pubblica, con una giuria, se gli aggrada, per occuparsi delle nostre rimostranze contro il governo e dei metodi delle nostre manifestazioni. Io ritengo che non siano state le imputate congiurare, ma è il governo che ha cospirato contro di noi per schiacciare il nostro movimento. Ma qualsiasi decisione verrà presa, noi saremo contente di attenerci al verdetto dei posteri. Noi non siamo il tipo di persone a cui piace vantarsi molto. Non ci saremmo mai trovati in questa posizione se non fossimo state convinte che questa è l'unica strada da percorrere. Ho provato, è tutta la vita che lavoro per questo. Ho provato con la discussione, ho provato con la persuasione. Ho tenuto discorsi in un'infinità di incontri pubblici, forse più di ogni altra persona in quest'aula, e non ho mai parlato a un'assemblea in cui l'opinione dell'assemblea, non un'assemblea a pagamento, ma una riunione aperta, perché non ho mai parlato a nessun altro tipo di riunione, non fosse quella che le donne, assumendosi carichi e responsabilità al pari degli uomini, dovrebbero godere dei privilegi di cui godono gli uomini. Sono convinta che l'opinione pubblica sia dalla nostra parte. Solo che è stata repressa, ostinatamente repressa, e quindi, in una corte di giustizia pubblica, uno è contento di poter parlare di questa questione. La ringa del procuratore generale per conto dell'accusa fu in larga parte incentrata sulla difesa del Partito Liberale e del suo percorso sulla legislazione del suffragio femminile. Di conseguenza, Tim Haley, nella ringa difensiva per conto della signora Patty Clarence, fece bene a dare enfasi al carattere politico dell'accusa di cospirazione e del relativo processo. Dissi: non c'è dubbio che sia assai utile avere degli avversari politici che mettano in moto la legge contro se stessi. Non ho il minimo dubbio che sia una cosa molto conveniente se hanno il coraggio di farlo, tappare la bocca a tutta l'opposizione di Sua Maestà, mentre l'attuale governo è in carica. Mettere sotto chiave tutti gli uomini di grande lustro e importanza nei nostri dibattiti aperti e nelle nostre tribune pu pubbliche, tutti i Carson, gli Smith, i Bonarlo e così via. Sarebbe molto conveniente chiudere tutta la questione, così come lo sarebbe farla finita con il movimento femminile mettendolo sul banco degli imputati. Signori della giuria, qualsiasi cosa abbiano detto i reciproci avversari, qualsiasi istruzioni siano state date non a donne deboli, ma a uomini armati e addestrati, loro non hanno avuto il coraggio di perseguire nessuno eccetto le donne, tramite la messa in stato d'accusa. E il governo del mio colto amico ha selezionato due date come momenti cardine e ha chiesto a voi di esprimere un giudizio sui prigionieri alla sbarra e di dire che senza motivo, senza ricevere alcuna provocazione, queste persone di rango universitario, responsabili di buona famiglia, educate, sono state improvvisamente, secondo quanto sostiene l'accusa, coinvolte in questi progetti criminali con malvagità e premeditazione. Signori della giuria, la prima domanda che voglio fare in questo senso è: cosa c'è nella richiesta avanzata dalle donne che avrebbe causato il trattamento ricevuto da questo movimento da parte dei ministri di Sua Maestà, stando alla documentazione che qui viene esibita come prova? Presumo che l'essenza di tutti i governi debba essere un comportamento omogeneo nella gestione di tutte le questioni, affinché coloro che godono di alte posizioni di comando, di grandi emolumenti, non rappresentino fazioni contro cui muovere l'accusa di provocare conflitti civili e alimentare disordini pubblici. Che cosa scopriamo? Scopriamo che per quanto riguarda la richiesta, che è sempre stata avanzata agli inizi in maniera umile, decorosa, rispettosa, il trattamento riservato a questa richiesta da chi ha ricevuto sindacalisti, oppositori della vaccinazione, sorelle di mogli decedute e tante altre forme di rivendicazione politica, scopriamo che quando queste persone che promuovono questa particolare riforma civile richiedono un colloquio, richiedono di poter accedere a un luogo, richiedono che siano rispettosamente accolte le loro petizioni, vanno incontro in sede giudiziaria in tutte le occasioni a un netto e solenne rifiuto. È qui che nasce lo scontento nelle menti di persone come gli imputati qui presenti, persone come quelle contro le quali è stata data una prova, che le ha portate oggi a sedere dinanzi a voi su questo banco. E sottopongo a voi la questione, se è stata l'istigazione delle mie assistite o la condotta dei ministri a cagionare questi eventi. E vi chiedo se almeno una parte della colpa non debba ricadere su spalle più autorevoli. E se ve la sentite di affermare che gli unici colpevoli siano le persone che compaiono oggi al banco degli imputati. In chiusura, Halley ritornò sulla questione della natura politica del processo. Il governo ha istituito questo procedimento, dichiarò, per isolare i capi del movimento per un certo periodo. In questo modo spera che alle assemblee pubbliche non si verifichino più inconvenienti al grido di voto alle donne. Non riesco a trovare un'altra buona ragione per cui abbia voluto aprire questa causa. Ho espresso il mio rammarico per i danni che i negozianti, gli artigiani e altri hanno subito. Mi dispiace immensamente. Mi duole che chiunque possa arrecare danni o sofferenza a persone innocenti. Ma vi chiedo di comprendere che il prezzo della legge è stato già sufficientemente saldato con la punizione degli autori materiali dell'azione. Cos'altro c'è da aggiungere? La giustizia forse aumenterebbe? Ho qualche perplessità nel considerare questo procedimento un'inchiesta legale. Mi sembra più un atto politico vendicativo. Di tutte le incredibili accuse che sono state rivolte contro un prigioniero in un tribunale pubblico, non riesco a non vedere quella contro il signor Patty Clarence come la più incredibile. Ha avuto l'ardire di presentarsi a qualche tribunale di polizia e di pagare la cauzione per delle donne che erano state arrestate mentre tentavano l'impresa, da quel che ho capito, di presentare delle petizioni al Parlamento o per aver fatto ricorso alla violenza. Non intendo protestare per il modo in cui il mio illustre amico ha condotto il procedimento, ma reclamo per i metodi della polizia. È andata a chiedere informazioni nelle case e negli ambienti domestici degli imputati, ha preteso i loro documenti, ha preso il loro giornale, è entrata nei loro conti bancari, ha portato qui i banchieri per rivelare il saldo dei loro conti correnti. E devo dire che nessuno dei procedimenti del passato si sono mai visti simili metodi screditare un processo di Stato. Perché, guardatelo come volete, non potete negare che questo è un grande processo di Stato. Non sono le donne i soggetti che subiscono questo processo, sono gli uomini. È il sistema del governo che è oggetto del suo stesso processo. È la sua maniera di tirare i dadi fino a 54 per una messa in stato d'accusa che non si basa su una minima prova di imputazione. Il sistema è sotto processo, un sistema per cui ogni atto innocente della vita pubblica è ritenuto invischiato in una cospirazione. La giuria si assentò per più di un'ora, a riprova delle difficoltà incontrate nel raggiungere un accordo sul verdetto. Quando i giurati rientrarono, si capiva dalle stanche espressioni dei loro volti che avevano dovuto lavorare sotto una grande pressione. La voce del primo giurato tremava mentre pronunciò il verdetto: colpevoli dei reati imputati. ed ebbe seria difficoltà a controllare le emozioni mentre aggiungeva: Vostra Eccellenza, desideriamo esprimere all'unanimità la speranza che, tenuto conto delle motivazioni, senz'altro oneste, che stanno alla base del fermento che ha generato questa difficile situazione, vogliate esercitare la massima clemenza e tolleranza nell'affrontare il caso. Questa preghiera fu seguita da uno scoppio di applausi, poi il signor Petty Clarence s'alzò in piedi e chiese di poter dire poche parole prima del pronunciamento della sentenza. Disse che doveva essere chiaro, a prescindere dalla raccomandazione della giuria, che noi eravamo mossi da ragioni politiche e che di fatto eravamo trasgressori politici. Nei tribunali inglesi si era stabilito che i trasgressori politici erano differenti dai trasgressori comuni e il signor Lawrence citò il caso di un cittadino svizzero, la cui estradizione fu rifiutata per via del carattere politico del suo reato. La Corte, in quel caso, aveva affermato che pure se il crimine consisteva in un omicidio commesso per ragioni politiche, restava un crimine politico. Il signor Lawrence ricordò al giudice anche il caso del defunto Woody Stead, che era sì colpevole di un reato, ma che per via dell'insolita motivazione del reato ricevette un trattamento di prima divisione e la piena libertà di vedere la famiglia e gli amici. Per ultimo fu citato il caso del dottor Jameson. Sebbene la sua eruzione avesse causato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 46, si tenne conto del carattere politico del suo gesto e fu recluso in regime di prima divisione. Erano tutti uomini e combattevano una guerra di uomini. Noi della WSPU eravamo donne e combattevamo una guerra di donne. Lord Coleridge, dunque, vedeva in noi solo degli incoscienti criminali che resistevano alla legge. Lord Coleridge disse: Siete state dichiarate colpevoli di un reato per cui la legge prevede, se decidessi di applicarla, una condanna di 2 anni di carcere e lavori forzati. Esistono delle circostanze legate al vostro caso che mi sono state sottoposte molto accuratamente dalla giuria. E voi tre mi avete chiesto di essere trattati come criminali eccellenti. Se nello svolgimento di questa causa avessi notato qualche segno di pentimento o di sconfessione degli atti che avete commesso, o la promessa di non volerli più ripetere in futuro, avrei fatto prevalere queste ragioni sugli argomenti che mi sono stati avanzati. Non essendo stato espresso alcun pentimento da parte nostra, la sentenza della Corte fu che dovevamo essere imprigionati nella seconda divisione per un periodo di 9 mesi. E che dovevamo pagare le spese processuali.